Silvia Townsend Warner. Il romanzo di formazione è stato un genere letterario molto in voga nell'Ottocento e agli inizi del Novecento, che ci ha lasciato veri e propri gioiellini letterari, capolavori di ironia, acume e insegnamento. In particolare, le fanciulle dovevano ringraziare le autrici vittoriane che trasmisero un reale messaggio di allerta alle loro lettrici utilizzando il mezzo apparentemente innocuo del romanzo. Sylvia Townsend Warner, nata in Inghilterra alla fine dell'Ottocento, fu educata dal padre, uomo di grande cultura, che, morendo, le lasciò un grande vuoto. Ma Sylvia non era certo una persona comune. Ebbe una relazione con il suo professore di musica molto più vecchio di lei, si iscrisse al Partito Comunista per aiutare a contrastare il crescente potere del fascismo, fu volontaria nella Croce Rossa in Spagna durante la guerra civile e, donna eccentrica e fuori dal coro, tanto per non annoiarsi, ebbe una relazione con la poetessa Valentine Eklund, che durò per il resto della sua vita. Le due donne sono sepolte insieme. Fu musicista, giornalista politica, biografa, traduttrice e autrice di 7 romanzi. Le sue storie partono con un tono formale, vittoriano, ma nel prosieguo prendono una piega surreale e inaspettata, quale quella di una donna che diventa strega. E infatti è questo che diventa Lolly Willows, la protagonista del primo romanzo di Silvia, pubblicato quando l'autrice aveva 30 anni. Il romanzo parte come romanzo di formazione in stile vittoriano. La inizialmente docile protagonista Laura è costretta, a causa della morte del padre di cui lei si occupava, a trasferirsi a Londra dal fratello. Tutti si aspettano che trovi un uomo rispettabile e si sposi, adempiendo così al destino comune delle fanciulle vittoriane, ma qualcosa va storto. A 47 anni, dopo essere stata una perfetta, mite e gentile zitella, cognata e zia che si occupa amorevolmente dei nipoti, raggiunge la mezza età e decide di trasferirsi nel villaggio delle streghe e dei sabba, chiamato Great Mop, per diventare una strega. Per 20 anni Laura si era lasciata trascinare da una sonnolenta quotidianità. Ma a momenti arrivava anche a lei un'inquietudine strana e inspiegabile, forse legata al cambio delle stagioni, all'odore dei cambiamenti della natura, alla luna piena, al rumore dell'acqua o al canto degli uccelli notturni. La trasformazione della donna è graduale e anche fisica. Gli angoli della bocca si curvano verso il basso, il naso diviene adunco. A Great Mop, Lolly si sbarazza di un'esistenza priva di identità e di libertà, lasciandosi guidare dall'attrazione per la natura selvaggia. Comincia a camminare nei prati, a dormire nel bosco e crea una relazione profonda con le colline. La natura invita ad essere naturali. L'autrice Sylvia Townsend Warner ironizza sulla formazione positivista di crescita e inserimento nella società e sul sentimentalismo vittoriano che la impregna. Per lei la natura ha una caratteristica sensuale, tattile, ancestrale. La natura instaura una relazione magica con le donne, creando un rapporto che in alchimia potrebbe essere definito analogico, in netta contrapposizione con il rapporto che invece hanno gli uomini impegnati a dominarla e a darle forma per addomesticarla. Quando il nipote preferito di Laura nel romanzo si stabilisce da lei, la sua presenza è vissuta come un'invasione del patriarcato. La paura di sentirsi posseduta e di nuovo imprigionata dai soffocanti vincoli familiari vittoriani spinge Laura a stringere un patto con il diavolo. Immersa nella natura primordiale e selvaggia, la donna sente il richiamo del diavolo che lei considera l'amoroso cacciatore. Rispondere alla chiamata della natura primigenia è la risposta a chi, come scrive l'autrice stessa, finge che la vita sia un luogo sicuro. Le sue protagoniste, a un certo punto della narrazione, con un anticipo di anni sul tema dell'emancipazione femminile, trattato da Virginia Woolf in Una stanza tutta per sé, si ribellano al loro status preconfezionato e si rivolgono alla riconquista del potere femminino, entrando a pieno titolo nel magico cerchio di donne selvagge che comprende George Sand, Emily Bronte, Mary Wollstonecraft, Camille Claudel, Rosa Luxemburg, Marie Curie, Emily Dickinson, Violetta Parra, Grazia Deledda e tante altre. La Scuola delle Donne è lieta di proporvi di Sylvia Townsend Warner, Lolly Willows, edito da Adelphi, tradotto da Grazia Gatti e letto da Giorgia, figlia di Lidia. Da Devana, buon ascolto.